Per un minuto, permettetecelo, non vogliamo parlare di poliziotti, fiera blindata, proteste e polemiche. Forse saremo costretti a farlo nei prossimi giorni. Vogliamo invece parlare di emozioni, quelle che può dare la letteratura e quelle che ha regalato lo scrittore israeliano Aaron Appelfeld nella serata inaugurale. Mai Sifrut Chozrim Veshoalim Dorot Meas Aristo. Desidero raccontarvi alcune cose molto personali, ha detto, e in particolare perché mi sono rivolto alla letteratura. La storia di Appelfeld ha dell'incredibile. A 7 anni i genitori furono uccisi nella Germania nazista. Lui fu portato in un campo di concentramento, riuscì a fuggire dopo 3 anni e ne passò altri 3 vagando nei boschi dell'Ucraina. Poi l'arrivo in Israele. Con parole semplici, Appelfeld riesce a descrivere tutto l'orrore della Shoah, cosa che fa in modo toccante nel libro Storia di una vita. Non parla mai di quanto accade nel campo di concentramento, un'esperienza profonda, scrive, si falsifica facilmente, ma racconta di cosa successe a chi fuggì e riuscì a sopravvivere. E ancora oggi si chiede: quale potrà mai essere il significato di un'esperienza tanto terribile? Alessandra Tedesco, Gera 24, Il Sole 24 Ore, Torino.